Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che si occupa di cronaca e di cultura spostando lo sguardo, includendo anche gli animali non umani nella grande famiglia delle creature degne di considerazione e di rispetto. Cercheremo nella prossima mezz'ora di segnalarvi quello che va e quello che invece non va nella direzione giusta, che per noi è la direzione di una società umana ecologica, non violenta e, come ci piace dire, cruelty free. Questa è la nostra puntata numero 598, nella quale rettificheremo alcune informazioni che vi avevamo dato 2 settimane fa relativamente alle proposte referendarie in corso in Italia contro la caccia. Parleremo dell'intenzione di una ONG inglese di riportare in Africa un gruppo di elefanti che sono cresciuti in uno zoo europeo e del dibattito che si sta creando intorno a questa operazione. Torneremo a parlare dei fenomeni di caldo record che non possiamo più definire anomali o straordinari e delle ostinate resistenze politiche sulla questione climatica. Andremo poi in Cina per raccontare gli sforzi che sono stati fatti e che sono ancora in corso per salvare alcune balene spiaggiate e resteremo in Oriente per riportare che ci sono accademie prestigiose che stanno inserendo nei loro curricula dei corsi dedicati alle proteine alternative alla carne. Ci sarà spazio per una ricetta cruelty free e per tanta ottima musica anche questa settimana a cura del nostro attivissimo tosco vegan chef Gabriele Palloni, che tra i suoi svariati talenti ha anche quello di saper fare il DJ. Speriamo di avervi incuriositi. Settimane fa abbiamo annunciato l'inizio della raccolta firme per portare al voto la cittadinanza italiana in un referendum contro la caccia. Come abbiamo affermato, fino a fine settembre ci si può recare presso l'ufficio elettorale del proprio comune oppure ai banchetti organizzati nelle piazze di centinaia di città italiane, appunto, per firmare. La firma però in questa fase consente semplicemente al referendum di essere eventualmente indetto e non obbliga in alcun modo a decidere se e cosa votare. I quesiti da sottoscrivere sono 3. Uno è stato depositato a maggio dal comitato Sì aboliamo la caccia, che riunisce più associazioni, tra le quali però mancano LAC, LIPU, LAV e Associazione Vittime della Caccia, che a nostro modo di vedere sono le più importanti associazioni animaliste che si battono da sempre sulla questione della caccia. Gli altri 2 quesiti sono stati depositati da Movimento Politico Ora Rispetto per Tutti gli Animali. Ora Rispetto per Tutti gli Animali è proprio il nome di questo movimento. Dobbiamo rettificare quanto comunicato 2 settimane fa perché siamo stati un po' sprecisi e quindi ecco le rettifiche. La prima è questa: il Movimento Politico Ora Rispetto per Tutti gli Animali non ci risulta far parte del comitato Sì aboliamo la caccia. Poi il comitato dell'Associazione Vittime della Caccia, a cui abbiamo dato spazio, non è in realtà un comunicato attuale, in quanto risaliva al marzo scorso e si riferiva a un quesito referendario precedente e superato che richiedeva l'abrogazione totale della legge 157 del 92. Terzo e ultimo punto, ad oggi non si raccolgono firme per l'abrogazione in toto della legge 157 del 92, bensì si raccolgono firme per abrogare una serie di articoli di tale legge che regolamentano appunto vari aspetti dell'attività venatoria. Ribadiamo però che c'è effettivamente molta confusione sotto il cielo e che inquieta molto l'assenza dei più importanti soggetti associativi all'interno del comitato referendario. Aspettiamo che questi soggetti decidano cosa fare, se esprimersi pubblicamente o meno sui quesiti attualmente alla firma. Se lo faranno, noi ve ne daremo conto. Nel frattempo vi invitiamo a informarvi in modo molto accurato prima di decidere cosa fare. Keep running wild in a confined space. But you're not to blame, 'cause you're not the same. Get on the case. Referendum, ma stavolta parliamo di clima e andiamo in Francia. Prendiamo la notizia da ilpost.it di mercoledì 7 luglio. Martedì 6 luglio il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che il referendum per inserire nella Costituzione francese un riferimento esplicito alla lotta al cambiamento climatico e alla protezione dell'ambiente, voluto dal presidente Emmanuel Macron, non si farà. L'annuncio di Castex è arrivato dopo che per due volte il Senato francese, dominato dai conservatori, aveva respinto la formulazione del testo della proposta che era stato scritto da un comitato di 150 cittadini e discusso per mesi in Parlamento. In particolare, scrive Le Monde, il Senato francese non accetta che la Costituzione possa garantire, tra virgolette, la lotta al cambiamento climatico, preferendo una formulazione meno vincolante. Macron aveva annunciato lo scorso dicembre di voler indire un referendum per inserire la difesa del clima nella Costituzione, in risposta alle critiche che aveva ricevuto, secondo le quali non stava facendo abbastanza per combattere il cambiamento climatico. Ricordiamo che solo poche settimane fa in Svizzera un referendum ambientalista a favore della riduzione delle emissioni di CO2 ha mancato il suo obiettivo per un numero di voti in fondo piuttosto contenuto. Ci sono in atto alcuni primi tentativi di fare qualcosa per il clima, ma per il momento la politica non sembra intenzionata a concedere qualcosa al cambiamento. I wanna be a lion. Everybody wanna pass this cats. We all wanna be big, big stars, yeah, but got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe. Wanna be someone who believes. So come on, baby. Oh, believe in me, yeah. Mr. Joe, let me. Stumbling through the barrio. Yeah, we see beautiful women. She's perfect for you. Got to be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones, he was someone just a little more funky. Well, and everybody. Restiamo in tema di clima e dalla Francia ci spostiamo però in Nord America, dove da una decina di giorni, come abbiamo già raccontato, è in corso una terribile ondata di caldo. Le temperature infernali hanno sterminato almeno 1 miliardo di animali marini nel mare di Salish, una propaggine dell'Oceano Pacifico situata tra la British Columbia del Canada e lo stato statunitense di Washington. Dalle coste di questo florido bacino d'acqua in pochi giorni si è elevato un odore nauseante. E si è scoperto che era dovuto all'enorme biomassa di creature in decomposizione sostanzialmente cotte vive e uccise dalle temperature insostenibili che in alcuni casi sono state molto superiori ai 40 gradi e hanno raggiunto i 50. Il caldo record, in combinazione con una delle maree più basse dell'anno, sta letteralmente cuocendo vivi i piccoli animali che popolano le spiagge. Questo mix si è rivelato letale per milioni di molluschi, ostriche, stelle marine, vongole e altre creature del mare. I biologi si sono accorti che qualcosa non stava andando nel verso giusto quando hanno avvistato avvoltoi aggirarsi lungo la costa, attirati dagli animali morti e da un odore simile a quello del pesce alla brace. Molluschi e altre creature marine erano state letteralmente cotte dal calore. I molluschi purtroppo sono animali estremamente sensibili, che aprono la loro conchiglia sulla spiaggia, rivelando la loro carne nuda e indifesa, che è appunto protetta dalla conchiglia. Questi fenomeni meteo estremi diventano sempre più frequenti e intensi mano a mano che la crisi climatica, provocata anche dall'uso smodato dei nostri combustibili fossili, si abbatte senza pietà sul mondo animale, ma anche sul nostro. Centinaia di persone infatti sono morte nel nord-est del Pacifico, come abbiamo già detto, tra Stati Uniti e Canada, sempre per la stessa incredibile cappa di calore. Mirrors on the ceiling, they pink champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just kill the beast. La cappa ha minato anche la salute di piccoli pulli di falco, che sono stati visti gettarsi a dozzine dai loro nidi nel disperato tentativo di contrastare la calura. Il centro di riabilitazione della fauna selvatica Blue Mountain Wildlife ha preso in cura, pensate, più di 50 piccoli falchi, troppo giovani per volare, che però si sono lanciati giù dai nidi per sfuggire al caldo di questi giorni. Per comprendere quanto è drammatica la situazione in Canada, basti pensare che nei giorni scorsi il Coroner's Service della British Columbia ha comunicato che tra il 25 giugno e il 1 luglio nella provincia sono morte improvvisamente 777 persone. Secondo gli esperti, la causa di queste morti è stata proprio l'ondata di calore estremo. Parole piuttosto pesanti sono quelle che troviamo in un articolo a firma di Sara Gandolfi nel Corriere.it del 12 di luglio. La crisi climatica, scrive Gandolfi, ha superato in peggio ogni previsione e ora gli stessi scienziati dicono nessun luogo è più sicuro. I roghi in Siberia, il caldo invivibile in Medio Oriente e ora il Canada. Le regioni del mondo, dall'America settentrionale all'Europa, dall'Asia all'Australia, devono prepararsi a eventi meteorologici sempre più estremi. In Medio Oriente, a inizio giugno, 5 paesi hanno superato la soglia dei 50 gradi. Un calore invivibile, allorché la cosiddetta temperatura di bulbo umido, cioè data da un termometro che è coperto da un panno umido, supera i 35 gradi. Quando poi l'umidità è bassa, gli esseri umani possono sopravvivere anche a temperature superiori ai 50 gradi. Se però sia la temperatura che l'umidità sono elevate, nulla può rinfrescare il corpo, né sudare né immergersi in acqua. L'uomo non sopravvive neppure se sta all'ombra. L'anno scorso alcune località del Golfo Persico e nella valle del fiume Indo in Pakistan avevano già raggiunto questa soglia, anche se solo per un'ora o due e solo su piccole aree. Il rischio è che la durata e l'estensione di queste condizioni estreme possano in futuro ampliarsi se non si correrà ai ripari. She wants to play with the toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die, oh, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure? I don't like money. Tell me why. I don't. day down. Sul Corriere.it, a firma di Silvia Morosi, l'8 luglio scorso è stato pubblicato un articolo che riguarda l'operazione Dumbo Jet. È la storia di 13 elefanti attualmente ospitati in un piccolo zoo vicino a Canterbury, nel sud-est dell'Inghilterra, che saranno portati in Kenya a cura della fondazione Aspinall a bordo di un Boeing 747 già ribattezzato in loro onore Dumbo Jet. A capo della comunicazione di questo ente c'è Carrie Johnson, la moglie del primo ministro britannico Boris Johnson. L'intento di riportare gli animali nel loro ambiente incontra però scetticismo e critiche. Si tratta dell'operazione di rewilding più ambiziosa mai messa in atto. Il rewilding è una pratica volta al ripristino degli ecosistemi, reintroducendo o favorendo il ritorno degli animali nel loro ambiente naturale, per poi lasciare fare alla natura il proprio corso. Per il trasporto saranno utilizzate delle casse appositamente costruite, dove i 13 pachidermi potranno viaggiare in tutta sicurezza. È la prima volta che un intero allevamento di elefanti viene rimesso in libertà. Col tempo i loro discendenti saranno centinaia e poi migliaia e faranno parte dell'incomparabile ecosistema che aiuta a guidare l'economia turistica del Kenya. Questo è quello che dichiara la fondazione Aspinall, che attualmente gestisce due parchi naturali nel Kent. In sostanza una versione 2.0 dei vecchi zoo. L'anno scorso la stessa fondazione ha riportato due ghepardi in Sudafrica. L'intento di riportare gli animali nel loro ambiente naturale però incontra scetticismo e critiche. Portale nelcuore.it racconta aspetti più opachi di questa vicenda. Intanto la decisione di trasportare gli elefanti richiederà l'approvazione formale del governo kenyota, che per il momento non è stata data, e sarà soggetta alle linee guida nazionali e internazionali sull'introduzione della fauna selvatica. Come non bastasse, la Charity Commission inglese continua a indagare su questa fondazione Aspinall e sull'Owlet's Wild Animal Trust, che gestisce lo zoo privato che ospita attualmente gli elefanti, in merito a possibili conflitti di interesse e abuso di risorse di beneficenza. Anche tanti specialisti di elefanti e ambientalisti hanno espresso in privato le loro preoccupazioni sulla questione del trasporto di questi animali, sottolineando anche che il Kenya ha già circa 35.000 elefanti e che i fondi per il trasporto di questi giganteschi mammiferi, che complessivamente dovrebbe costare circa 1 milione di sterline, potrebbero essere spesi molto meglio per altri progetti. Da parte nostra continueremo a seguire la vicenda. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black night. All your life you were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. Una delle migliori istituzioni terziarie asiatiche, la Nanyang Technological University di Singapore, ha appena inserito nei suoi programmi universitari il corso di laurea Future Foods, Introduction to Advanced Meat Alternatives, cioè cibi del futuro, introduzione alle più avanzate alternative alla carne, un corso che inizierà ad agosto. Questo corso universitario si propone di esplorare le alternative sostenibili alla carne, evidenziando il fatto che potrebbero essere una soluzione per mitigare i problemi del cambiamento climatico e della sicurezza alimentare, fornendo ai partecipanti al corso una comprensione delle principali tre tecnologie nel campo delle proteine alternative alla carne, che sono la carne coltivata, le proteine vegetali e la fermentazione. Ogni studente poi dovrà anche sviluppare una proposta di ricerca che affronti una sfida concreta del mondo reale. Il corso è rivolto a studenti del terzo e quarto anno di Scienze e Ingegneria, con specializzazione in Scienze e Tecnologie Alimentari, e sarà coordinato dal professor William Chen, direttore del Food Science and Technology Program, un programma che collabora anche con il Good Food Institute e la sua rete scientifica globale. La produzione alternativa di proteine, ha sostenuto il professor Chen, è emersa come un potente motore economico in Asia, creando potenzialmente opportunità di lavoro redditizie per i giovani qualificati provenienti da tutto il nuovo panorama dell'industria alimentare. Non vediamo l'ora, ha concluso Chen, di lavorare anche con altre università asiatiche per preparare gli studenti a un futuro mondo guidato dalla tecnologia, contribuendo a una maggiore sicurezza alimentare e a un impatto sociale positivo nella regione. Quindi il mondo scientifico sembra tutto proteso a queste soluzioni di tipo tecnologico. Il consumatore, d'altra parte, è viziato. La possibilità di cambiare qualcosa nell'alimentazione non sembra presa in considerazione come possibile soluzione. Noi invece tendenzialmente pensiamo che esistano già eccellenti alimenti proteici tra i vegetali, per esempio i legumi, e che non ci sia bisogno di mettere in tavola qualcosa che somigli alle carni di un corpo che era vivo e che abbia la stessa consistenza, lo stesso odore e lo stesso sapore. Sono soluzioni evidentemente industriali ed economiche, l'etica invece e il buonsenso non hanno trovato per ora una casa. Your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be your. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Il Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni, nel suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile, dedica la ricetta della settimana alle alternative avanzate della carne e ce le propone in una veste talmente avanzata da apparire quasi tradizionale. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Se si propone un nuovo corso per lo studio di alternative avanzate alla carne, mi candido come stagionato studente e rispolvero una delle mie creature. Non è leggenda, ma la ricetta l'ho letteralmente sognata, ovvero l'arrosto di Petonciano. E vi svelo un segreto. Petonciano non è un luogo misterioso, ma è uno dei modi di chiamare le melanzane in Toscana. Per forma, consistenza, profumo e sapore, questo piatto mi riporta alla mia infanzia, a quelle tavolate della domenica in campagna. Che sia questo il motivo per cui mi è arrivato in sogno? Gli ingredienti per 4 persone per l'arrosto di Petonciano sono 200 g di glutine di frumento o instant seitan, 100 g di farina di ceci, 3 melanzane, 150 ml di brodo vegetale, sale grosso e fino, uno spicchio di aglio, salvia e rosmarino. Lavate le melanzane e affettatele. Mettetele in con la pasta con un cucchiaino di sale grosso ed un peso sopra, lasciandole colare dal liquido di vegetazione per un'oretta. Trascorso il tempo necessario, sciacquate le melanzane e fatele grigliare. Pesate 300 g di melanzane grigliate e conservate il resto. Frullate i 300 g di melanzane con i 150 ml di brodo vegetale. In una boule impastate il glutine e la farina di ceci con la crema di melanzane, un pizzico di sale e un cucchiaio di olio extravergine e lasciate riposare 15 minuti. Nel frattempo tritate l'aglio assieme alla salvia e il rosmarino. Adagiate le rimanenti melanzane grigliate su un foglio di carta forno e stendete sopra l'impasto di glutine. Condite con il trito di aromi, sale e pepe. Arrotolate il tutto e legate con dello spago da cucina. Cuocete in forno a 180 gradi per 45 minuti. Servite a fette con un cucchiaio di olio extravergine nel quale avrete fatto rosolare un bouquet di rosmarino e salvia. Ricordiamo che è uscito l'ultimo libro di ricette di Gabriele Palloni, edito da Newton Compton. Il titolo è Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Chiudiamo con una notizia che arriva dalla Cina e che è stata pubblicata il 6 luglio dal South China Morning Post. La scorsa settimana 12 balene, in inglese si dice dalla testa fatta a melone, sono state trovate spiaggiate in Cina, a Beiyangba, nella provincia di Zhejiang. Si tratta di 12 balene peponocefale per la salvezza delle quali c'è stata una grandissima mobilitazione. 5 di loro purtroppo sono morte, 6 sono state riportate subito in libertà e l'ultimo esemplare si trova adesso in una struttura di detenzione acquatica, dove si sta facendo il possibile per salvarla. Secondo i media cinesi, 3 delle 12 balene erano già morte quando sono state scoperte. I pescatori hanno scoperto le balene distese sulla sabbia, rimaste bloccate dalla bassa marea. Quando poi è diventato chiaro che gli animali erano in difficoltà, c'erano già oltre 30 gradi Celsius nella zona e i residenti locali hanno coperto gli animali con lenzuola, imbevute d'acqua per aiutarli a rimanere freschi e umidi. Il gruppo ha anche costruito delle tettoie per proteggere le balene dal sole. È ironico, ma anche molto significativo il fatto che quando ci troviamo nella situazione di poter aiutare un animale non umano, ci si mobilita a prescindere dal fatto che lo stesso animale venga servito o meno anche a tavola. Probabilmente questo indica che un lavoro culturale potrebbe essere fatto affinché l'empatia prevalga sulla gola. Io non mi fido fino in fondo e mi confondo, perso nel tuo mondo a fondo, come una nave dentro l'uragano, come un fakiro con un chiodo in mano. Fammi giocare. Salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato. Anche io. Per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, che è la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 599 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.